pioggia novembrina, rami si irradiano d'intorno, tra muri, scalini e balaustre, riflessi marcio scuro, colori questo eterno paesaggio. Memorie abbandonate, ritrovi immagini sparute, città oltre lo spazio e il tempo, sistema planetario, luminosa scienza, orizzonte. Senza inganni d'umana prevaricazione, ma occhi di bimbo curiosi, di pura conoscenza sul mondo, oltre lo spazio e il tempo curiosi, tra echi di volti più cari, per ritrovar solo pioggia novembrina, rami si irradiano d'intorno, tra muri, scalini e balaustre, riflessi marcio scuro, colori questo eterno paesaggio.